Perché non ci provi? Mi chiede la ragazza in mutande dal mega manifesto affisso proprio davanti a casa mia. Che cosa esattamente debba provarmi a fare non me lo dice. Ma per fortuna non è necessario. Nell'italiano corrente quell'espressione in forma assoluta di solito si usa per alludere a un approccio sessuale e il fatto che la ragazza sia in mutande, nel senso che non indossa proprio nient'altro, non può che avvalorare l'ipotesi. Oddio, intendiamoci. La ragazza è in mutande, ma la sua immagine non offende la modestia. Ha cura di nascondere il seno con le braccia conserte e persino gli occhi sono coperti da una ciocca di capelli, come evitare il rischio di trasmettere un messaggio troppo esplicito. Anche le mutande, almeno viste dal davanti, non sembrano nulla di speciale. Saranno forse un po' bassine in vita, ma il modello per dimensioni e opacità è di quelli che persino mia nonna avrebbe approvato di tutto cuore. L'unica cosa che quella creatura esibisce in pratica è l'ombelico, ma l'ombelico oggi lo esibiscono le educande e nessuno ci trova niente da dire. Tra tutte le icone che vediamo appiccicate sui muri, la sua, nonostante l'abbigliamento così drasticamente ridotto, è figurativamente una delle più caste. Tuttavia resta sempre l'immagine di una ragazza in mutande che mi chiede perché non ci provo, che ostenta cioè pur con discrezione un'offerta sessuale, e lo fa evidentemente a scopo di propaganda commerciale, per promuovere sul mercato qualcosa che al momento non si specifica. È difficile che essere proposto in vendita sia un lotto di ragazze, perché in Italia la schiavitù sessuale o no non è ignota e viene anche pubblicizzata, ma in forme diverse. E non è detto neanche che si tratti di una nuova marca di biancheria intima. Nel qual caso, rivolgendosi a un pubblico femminile, il messaggio giocherebbe più che sulla concupiscenza, sull'identificazione con un oggetto di concupiscenza. Ma qualcosa sicuramente sarà. Ci troviamo davanti, in tutta evidenza, uno dei tanti casi di campagna pubblicitaria a due tempi, in cui, dopo che l'interesse dei consumatori è stato opportunamente suscitato da una comunicazione ambigua o enigmatica, in questo caso da un gioco di parole malizioso, una seconda ondata di manifesti o che altro provvederà a sciogliere l'enigma spiegando a tutti in che modo concretamente ci dovranno provare. Ora, se nel mio caso specifico l'invito può essere di scarso appello, intanto perché sono un uomo sposato e poi perché anche se non lo fossi sarei comunque troppo anziano e troppo imbranato per tentare degli approcci con le ragazze, può darsi benissimo che qualcun altro vi si dimostri sensibile. Perché no, peraltro? Di questi tempi, giocando sul sesso si vende qualsiasi cosa, automobili, acque minerali, telefonini, purganti. Come si è visto recentemente in Gran Bretagna, si riesce a vendere anche un primo ministro con relativa maggioranza governativa. La pubblicità si è saldamente impadronita dell'argomento e se i suoi strateghi non si provano neanche a sfruttarne un altro, avranno i loro motivi. Il bello o il brutto è che tutto questo avviene in un quadro sociale in cui nessuno può dire a prima vista che il sesso, utilizzazioni commerciali a parte, sia stabilmente inserito nel quadro dei valori positivi. Il nostro è un paese in cui, tanto per fare un esempio che a prima vista non c'entra, l'intera struttura ecclesiastica, quasi tutte le forze di governo, metà di quelle di opposizione, si schierano contro il referendum sulla procreazione assistita, cioè in difesa di una legge che si sforza di riallineare le modalità correnti di gestione del proprio corpo con la vecchia normativa della Chiesa in materia. È un simile paese non può dirsi da questo punto di vista particolarmente sereno. Diviso com'è tra la moralità sessuale delle campagne pubblicitarie e quella del cardinale Ruini, rivela al contrario un atteggiamento spiccatamente schizofrenico. E anche a prescindere da questo aspetto, che non è privo comunque di una sua rilevanza, non è che l'alluvione di raffigurazioni e allusioni di cui siamo sommersi sia in sé un sintomo di tolleranza, sia il marker di una società in cui ciascuno possa disporre liberamente di sé sulla propria esclusiva responsabilità. Il sesso a uso commerciale non è esattamente la stessa cosa di quello, come dire, di quello privato. Perché voi sinceramente ci provereste davvero con quella ragazza lì? Io non lo credo perché, per quanto apprezzabile sia quella immagine, nessuno ci prova con i manifesti pubblicitari, e non potrebbe neanche provarci lei, nonostante la sua apparente disinvoltura, perché è stata concepita e costruita al solo scopo di vendere i prodotti che deve vendere, e quali che siano, e solo a questo fine è orientata ed esibita la sua femminilità. È il simbolo. Lei, come le sue innumerevoli colleghe e i suoi meno numerosi colleghi, ma ci sono anche quelli, è il simbolo di un mondo in cui tra il sesso e il quadrino prevale sempre il quadrino. E spero che comprerete con me che è davvero un peccato.